serpente corallo di Stefano Elli, Marco Lo Conte e Mauro Meazza. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Buongiorno, buongiorno, benvenuti al Serpente Corallo, la trasmissione che vi spiega come evitare i serpenti corallo. Buongiorno da Mauro Meazza. Da Marco Lo Conte. Da Stefano Elli. E allora, cosa sono i serpenti corallo? I serpenti corallo, vuoi dirlo tu, Marco? Vuoi spiegarlo per un'altra volta ai nostri ascoltatori? Eh sì, i serpenti corallo sono quelle trappole che ci si presentano come delle cose belle, simpatiche, carine, ci traggono in inganno e poi ci danno la fregatura. E la particolarità, caro Stefano, è che i serpenti corallo adorano i nostri risparmi, giusto? Sì, li adorano incommensurabilmente. E allora noi, per spiegarvi come fare a riconoscere i serpenti corallo, essendo noi tre giornalisti del Sole 24 Ore, ci occupiamo, ci imbattiamo in serpenti corallo ad ogni piè sospinto, verrebbe da dire. Posso dire ad ogni piè sospinto, Marco? Ma dire di sì, come diceva il poeta. Io vorrei invece introdurre il caso della puntata, il corallo per antonomasia della puntata. Questo è un corallone. È un corallone. Allora, Stefano, tu sei, diciamo, lo scopritore, colui che ci accompagnerà a capire i meccanismi, le dinamiche di questo corallone. Io dico solo un nome e un cognome, per quanto suonino strani, lo dico prima, perché si tratta di Addis Melayu. Capisco che magari può suscitare delle perplessità, ma vi assicuro non è un nome d'arte, non è un nome d'arte. E infatti, Stefano, questo signor Melayu di cosa si occupa, di cosa si occupava meglio? Beh, si è occupato di Forex in particolare. Si è occupato di Forex, cioè? Forex, il mercato delle valute, il mercato internazionale anche delle commodities, cioè delle materie prime, il mercato su cui nell'ultimo periodo, e in questo caso possiamo dire agevolmente che Melayu è stato un precursore di molti altri suoi imitatori, ha raccolto molto denaro nel Veneto in particolare, ma anche in Lombardia e altre latitudini, e salvo poi, diciamo, impadronirsene. Non so, è trovato più il denaro, scommetto. Sono ancora lì che lo cercano. È volato via, eh? Anche. È volato via. Questa mi sembra un po' una battuta che si capirà nel prosieguo. Te lo dici in un modo sornione. Esattamente. Allora, io a questo punto farei così: manderei la scheda per inquadrare la puntata. State a sentire, perché questo corallo noi ve lo raccontiamo come sempre, non tanto perché così voi vi divertiate alle spalle dei poveretti che sono rimasti turlupinati, ma perché possiate invece evitare serpenti corallo di tal fatta. Sentiamo la scheda. Lo diciamo subito. I reati commessi dal signor Giampiero Addis Melayu, ex ambasciatore dell'UNESCO nelle isole Vanuatu, sono caduti in prescrizione. Ma i 40 milioni che sono usciti dai portafogli delle centinaia di risparmiatori, soprattutto veneti e lombardi, per non tornare più, non sono affatto prescritti. Anzi, si preannunciano azioni civili per tentare il loro recupero. La truffa risale al 2005. La raccontiamo perché è stato uno dei primi casi di schema Ponzi la cui refurtiva è transitata dalla Gran Bretagna. Il denaro, infatti, passava dalla Svizzera a Londra. Da qui veniva convogliato almeno in 20 società, di cui 8 alle Seychelles, una di Panama, 6 di Las Vegas e 4 di un'isoletta del Pacifico che si chiama Niue. Il PM di Belluno, che ha indagato sulla vicenda, Massimo De Bortoli, ha inoltrato numerose rogatorie anche in altri paesi come la Russia e la Bulgaria. Che cos'è uno schema Ponzi? È una catena di investimenti che si alimenta con l'ingresso costante di nuovi investitori. Con il denaro portato dagli ultimi arrivati si pagano gli interessi dei primi partecipanti come in una sorta di staffetta. Per non destare sospetti, il truffatore è in genere molto attento a pagare con regolarità gli interessi ai partecipanti, che vedendosi corrisposte le cifre pattuite, in genere elevati interessi sui capitali, non solo non si insospettiscono, ma diventano a loro volta testimonial della bontà di quell'investimento. Lo schema salta quando le richieste di restituzione dei soldi da parte degli investitori divengono superiori alle capacità della cassa dei truffatori di farvi fronte. E allora lo schema Ponzi e Addis Melayu, Ma questo è, diciamo, uno schema classico, vero Marco, che viene utilizzato nelle truffe? Ma sì, da oltre un secolo che va avanti, ma proprio è tipico, perché poi solletica il palato più avido di denaro e poi questo palato rimane truffato. È tipico dei risparmiatori farsi fregare in questo modo. Sì, poi c'è la variante dell'ultimo periodo che io chiamo X Factor, perché ogni volta compare la lettera X all'interno di una società che ti propone un investimento, lì bisogna stare attenti. Cioè potrebbe essere un corallo, un indicatore, certo, di corallo. Una traccia. È un X Factor. Non vogliamo generalizzare, però, ma mi sembra, Marco, che tu abbia potuto fare uno scoop su questo. Sì, anche in questa puntata, qui lo dico e qui lo nego, anzi lo faccio. Sì, non picchiare sul tavolo che è tutto a prestito, poi non ce lo fanno pagare. La mia testa. È la sua testa. Di. Allora, ho intervistato, la persona che ha architettato tutta questa truffa. Sì, cioè? Perché è stata, tra l'altro devo dirlo, una delle interviste più rocambolesche della mia carriera. Sì. Perché ero lì che viaggiavo, da solo pensavo, mi leggevo le mie cose, quando sento l'assistente di volo che dice un nome e lì mi si accende la lampadina. Ho paura di sapere chi è. Allora vado a bussare nella cabina di pilotaggio, mi si apre la porta e lo vedo. È lui. Sì. Il regista di tutta l'operazione. Il regista di tutta l'operazione che si chiama? Ho paura a dirlo. Pipitone Broccoli. Beh, sì, però questo è un dettaglio. Sempre c'è Pipitone Broccoli. Ma non è tanto il nome e il cognome, è l'architettura che bisogna star dietro, bisogna controllare, guardare bene, capire come ha fatto. Questo va bene, guarda, voglio darti fiducia. Sentiamo l'intervista. Mi scusi, posso? Può fare cosa? Lo vede che sto pilotando? Guardi, le rubo veramente 2 minuti. Io l'ho riconosciuta, abbia pazienza. Torre! Sì. Torre! 4000! Direzione, prova Londra, prova Londra! Non la voglio disturbare, veramente 2 domande. Io credo di averla riconosciuta, lei è quello che ha architettato la grande truffa di Addis Melayu. E quindi... Turbolenza, no, veramente, poi la lascio andare. Architettato cosa? Cioè, tutta la vicenda di Addis Melayu, questo... Ma no, ma quello è un cliente, non c'entra niente. Ho capito, lei è un suo cliente, cioè lui è un suo cliente, e quindi che tipo di consigli ha dato? Come ha fatto a organizzare tutta questa, si può dire, questa ambaradanna? Ma non ho organizzato niente, non ho architettato niente, basta tutte le storie solite, che io ci prendo i soldi, li porto da una parte all'altra. Dove? Ci dica dove. Non so, questa volta qua li ho portati un po' alle Seychelles, un po' a Nevada, un po' a Delaware, un po' a Londra, però tutto parte da Londra. Londra? Tutto a base Londra. La gran parte dei Anche soldi? Adesso siamo da Londra. Ma quindi c'è un piccolo scalo a Ginevra, sì? Per portarci via un altro po' di cash, che c'è, adesso c'è la stiva piena di cash. Ah sì? Certo. Ah, ecco perché non ci stava la mia valigia. Non ci stava l'ola. Poi si è intrufolato di trovare. Vabbè, io mi sono intrufolato, il mio mestiere, abbia pazienza, sono un giornalista e quindi... Si è intrufolato con la valigia, ma cos'è? Vabbè, lì c'è il mio assistente che è dentro la valigia. Ma il punto è, ci dica i soldi, dove sono spariti? Spariti, sono stati nelle banche di Londra, poi dalla banca di Londra abbiamo fatto un bonifico, abbiamo fatto delle società all'estero, una che l'abbiamo fatta anche in un'isola che non sapevo neanche che esisteva. Quale? New. Vabbè, è un dettaglio, ma il punto è quanti soldi sono spariti? Perché anche su questa vicenda, insomma, tutti hanno lucubrato cercando di capire quanti soldi siano veramente spariti dalle tasche dei risparmiatori, e non tutti hanno denunciato questa vicenda. Figurati se denunciano, portate il nero, quella lì, che alla Forex, che si danno i soldi veri. Certo, lei ha approfittato perché erano tutti evasori e quindi... Ma quanti soldi? Non denunciano mica quelli lì. Ma quanti soldi sono scomparsi? 40 milioni. 40? Beh, però... Se alcuni, qua c'è un certo Ellis che scrive sulla Plus 24. Esatto, Stefano Ellis. Ha scritto anche di più, ma mica è vero. Ma quanti? Lui infatti mi pare che scrivesse più di 100, 200, 300, insomma tanti di più, ma... All'inizio, perché malcontati, perché all'inizio quelli che lo denunciano sempre di più. Certo, malcontati è proprio, è la parola giusta. Il punto è... Allora, lei dice 40 milioni, ma se anche all'incirca fossero stati 80-100, ma la differenza dove è finita? Chi se li è intascati spartiti. Tutti questi soldi? Sono spartiti. Spartito, spartizione. Commissioni varie? Le commissioni, le fees. Le fees, cioè le commissioni. Insomma, ve li siete presi voi. Sì. Ecco, e li avete messi in questi paradisi fiscali. Ma fare paradisi fiscali a Londra! A Londra bisogna andare per fare uno spirito di soldi! Ecco, questa cosa qua di Londra, ma Londra, ma adesso con la Brexit oppure da... Ma poco prima, vabbè, non ti fa mica tanta differenza. No, eh? No. E ci penserò su questa cosa qua di là. Io però adesso... Adesso devo pilotare, mi vada via. Vada in coda l'aereo, non si muova più, per piacere, fino a quando non arriviamo a Londra. Starstead, atterriamo a Starstead. Ok, d'accordo, mi vado a mettere anche la cintura. Bravo! Ma, pipitone broccoli. Sì, guarda, è stata veramente un'esperienza professionale unica, perché... tutti i giornalisti vorrebbero una volta nella vita, anche per caso, intervistare Pipitone Broccoli. Diciamo di sì, o comunque la persona che è stata dietro tutte queste vicende, che ti apre un mondo, no, rispetto... Perché qualsiasi truffa, qualsiasi vicenda di malversazione, di sottrazione di soldi ai risparmiatori, tu sempre mi proponi Pipitone Broccoli come regista dell'operazione. Ma perché lui è un avatar di tutti i truffatori di questo mondo, soprattutto del nostro mondo, che purtroppo cade spesso nelle stesse truffe, negli stessi tranelli che vengono posti ai risparmiatori. Va bene, io resto perplesso, però a questo punto ci dobbiamo fermare un attimo, dobbiamo ascoltare, penso, le informazioni della viabilità. Intanto cerchiamo di appurare un po' meglio che cosa ha combinato con la regia o meno di Pipitone Broccoli il signor Addis Melaiu. A tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Il serpente corallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. E vedi un po' che pago pure le tasse, che faccio? Lavoro, sgobbo, sudo, penso. Ma de che? Con me non passano. Vedi un po' che pago pure le tasse, così dovevano aver pensato gli investitori nell'affidare i loro risparmi a Addis Melaiu. Bentornati al Serpente Corallo, la trasmissione che fa un po' di educazione finanziaria, però un po' anche sorridendo. Bentornati Stefano Elli, ci vuoi riepilogare brevemente cosa faceva, cosa aveva combinato questo signor Melaiu? Era una centrale di raccolta di denaro, diciamo, spacciando questa raccolta per investimenti sicuri, per comunque investimenti su forex, su valute, su commodities, che raccattava un po' di, insomma, un po' di nero anche probabilmente, c'è stato anche tanto nero. E dopodiché c'è stato il fenomeno della sparizione di questo denaro, che è la cosa sempre più interessante, insomma. Cioè, dove è finito i soldi? Dal punto di vista del serpente corallo, appunto, il corallo che si... Dove finiscono i soldi, esatto. E dove sono finiti? Ecco, sono finiti, innanzitutto, la cosa interessante da dire è che sono finiti molti soldi sono finiti a Londra e nel Regno Unito. Ah, e allora guarda, noi per parlare proprio di Londra come crocevia, come posto ideale, giusto Marco? Punto ideale del polo di attrazione del denaro che vuole scomparire. Diciamo. Oh, grazie, come l'hai detto bene, perché io invece mi stavo proprio complicando la vita da solo. Abbiamo chiamato un esperto, è qui con noi il commercialista Gian Gaetano Bellavia. Buongiorno dottor Bellavia. Buongiorno. Allora, esperto di riciclaggio. No, esperto di riciclaggio sembra che faccia buono il mestiere di Pipitone Broccoli, no? Nel allora, senso, tecnicamente sarebbe un esperto di antiriciclaggio più che di riciclaggio. Un cacciatore di serpenti corallo anche lui. È un cacciatore di denaro. Esatto. Mm? Infatti la cosa più interessante di tutta questa vicenda è che, per esempio, noi sappiamo che il magistrato che ha indagato sulla vicenda, Massimo De Bortoli, allora procuratore a Belluno, aveva fatto molte rogatorie, l'aveva fatta in Russia, in Bulgaria, in altri paesi, tra cui appunto la Gran Bretagna. Hanno risposto tutti tranne la Gran Bretagna. Ah. È interessante da questo punto di vista, perché quasi tutti, diciamo, i personaggi che vivono una finanza borderline aprono una società, una holding, una limited, proprio in quel posto. Al commercialista Gian Gaetano Bellavia vogliamo chiedere come mai, qual è il punto centrale che rende Londra così attrattiva? Ma allora dobbiamo partire da un presupposto fondamentale. Molti pensano che i cosiddetti paradisi fiscali, che in realtà poi sono paradisi societari e bancari siano nelle isole dei Caraibi. In realtà i veri paradisi fiscali, societari e bancari sono negli Stati Uniti e a Londra, per tutta una serie di motivi un po' complessi storici, ma per quanto riguarda l'Inghilterra essenzialmente perché l'Inghilterra ha il Commonwealth e nel Commonwealth ci sono le Cayman Islands, le British Virgin Islands, le Seychelles e così via. Quindi una serie di paesi... Una serie di paesi che garantiscono il totale anonimato bancario e societario. Questo a condizione di passare da Londra, se capisco bene. Sì, certo, bisogna passare da Londra essenzialmente sotto il profilo societario, perché è chiaro che Londra, essendo parte della comunità, c'è qualche difficoltà per movimentare denaro contante. Allora il denaro contante prende una strada, ma le società sono inglesi. Le società sono inglesi perché le società inglesi sembrano uguali alle nostre, c'è la trasparenza, però se uno va a vedere le società inglesi si trova che i soci delle società inglesi sono società offshore, cioè o delle isole del canale normalmente che sono totalmente anonime e imperscrutabili, o delle British Virgin Islands che è sempre Commonwealth, quindi capita spesso che uno nei pubblici registri italiani censisca una società delle British Virgin Islands come società, certo, della Gran Bretagna, ed è una follia questa. A valle poi i bilanci ci sono, ma fanno ridere perché sono inventati. Bisogna dichiarare anche chi è il titolare effettivo essendo nella comunità, ma il titolare effettivo viene indicato una società delle British Virgin Islands, cioè in sostanza è l'antiriciclaggio inglese, fa veramente ridere, cioè è un marchio, un timbro. Loro ce l'hanno la legge, certo, sono nella comunità, la applicano. No. Sono ancora, diciamo, nell'Unione Europea. Poi nell'Unione vedremo. Europea gli dava un po' fastidio, adesso che escono gli andrà molto meglio sto questo profilo. Ecco, quindi le società si fanno in Inghilterra. I soldi non si muovono fisicamente in Gran Bretagna, si muovono in altre giurisdizioni. Tipo? Una volta si usava Cipro, si usava Malta o si usa ancora Malta, si usava molto la Svizzera, adesso la Svizzera ha ristretto. Adesso la nuova frontiera del riciclaggio fisico, del denaro, cioè delle valigie, dei bauli, è l'Est Europa. Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Ungheria, Bulgaria, tutti i paesi dell'Est consentono movimentazioni di denaro contante di dimensioni impressionanti. Quindi le società, gli intestatari dei conti sono società inglesi possedute da società offshore, con titolare effettivo offshore, che aprono conti in Estonia e lì si muovono i denari. E l'Estonia è un paese della comunità, quindi non hanno particolari evidenze, no? Dopodiché, se si vogliono versare o prelevare denaro contante, si usano i pulmini delle badanti per mandare e per far arrivare. Cioè, sembra una roba da ridere, no? Sembra un aspetto da film, e sì, però è tutto quello che succede. E questo è quello che succede. In vicende come quella di Addis Melayu, che poi Stefano, certo, dicevi, ha raccolto in modo personale, individuale, questi risparmi, li ha fatti sparire seguendo questi schemi che ci ha illustrato adesso Gian Gaetano Bellavia, e poi i soldi non si sono trovati più. Addirittura due delle società utilizzate dalla rete di Gianni e di Giampiero Aldis Belaio, era una dell'isola di Niue e l'altra l'Automobile Club delle Vanuatu. Insomma, l'Automobile Club delle Vanuatu come investimento mi sembra l'ideale, me lo devo segnare perché... Ma questo secondo me è il classico humor inglese, perché bisogna avere un senso dell'umorismo, esatto, per architettare tutto ciò che è non indifferente. Secondo Quindi me. Bulgaria e anche Romania. Paesi che sono stati utilizzati anche per la loro lasca legislazione fallimentare. Molte società italiane aprono là, mi risulta adesso. Sì, è la frontiera di tutto. È la frontiera fisica ed è la frontiera del riciclaggio e dei casini che ci sono nei sistemi finanziari. Cioè chi vuole rubare deve andare lì. Quindi il pulmino delle badanti è come a San Marino una volta si utilizzavano le borracce dei ciclisti per beh, si per fingevano la verità le... io ho visto a San Marino bauli di macchine piene di denaro contante, dopodiché i furgoni della Banca d'Italia andavano a prendere miliardi di euro o di lire all'epoca a San Marino. Comunque è stata completamente sostituita da queste nuove frontiere. Ecco. Grazie, grazie dottor Bellavia. Vorrei precisare che non stiamo consigliando come far sparire il denaro contante, ma vi stiamo raccontando di gente che, seguendo questi meccanismi, questi percorsi, è rimasta molto, ma molto, ma molto scottata. Ed è quello che appunto è successo a chi è stato coinvolto nella vicenda di Addis Melayu. Ma poi ci torneremo perché spiegheremo come si crea un effetto gregge, giusto Marco? Assolutamente sì, perché è importante conoscere le nuove rotte, le vecchie e le nuove rotte del riciclaggio, delle truffe, eccetera, ma anche è importante capire come noi diventiamo vulnerabili a questo tipo di truffe. E allora, vulnerabili o non vulnerabili, noi adesso vorremmo farvi sentire un breve assaggio del brano dei Chapter 11, che poi siamo sempre noi in chiusura di questo blocco. Non so se dalla regia abbiamo una strofa che fa al caso nostro, dal vivo un passaggio di una canzone che si chiama Il Consulente, che vorremmo idealmente dedicare a tutti gli Addis Melayu all'ascolto e anche quelli non all'ascolto. Il mio banchiere è un latitante, lo scrivo sul settimanale, lo dice Ellie, anche lo Conte, che alle Antille su uno yacht. Il mio denaro, lui mi ha detto, è in mani amiche, l'ha giurato e un giorno tornerà. E quando tornerà dalla sua vacanza, io sempre qui, sempre lo aspetterò. Quando lo beccherà la guardia di finanza, io qui alla mensa dei frati lo aspetterò. Ed è proprio alla mensa dei frati che si rischia di andare a finire, e seguendo soprattutto l'effetto gregge, ma questo ve lo raccontiamo tra pochissimo. Il serpente corallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Bentornati, bentornati a Serpente Corallo, la trasmissione che vi insegna a riconoscere e magari a evitare qualche fregatura, appunto qualche serpente corallo. E siamo qui adesso con il nostro esperto di educazione finanziaria. Sai, caro Stefano, c'è un esperto in studio con noi di educazione finanziaria. E Marco Loconte è qui con noi. Ah, è quello. Benvenuto a Marco Loconte. Grazie, esperto. Ero qua anche prima, però va bene, grazie della presentazione. No, ma eri sì. qui, ma non eri ancora qui. Allora, vero, vi ricordiamo non, che... Non ero ancora vestito acconciamente. Non eri vestito da esperto di educazione finanziaria. Vi ricordiamo che potete anche scrivere, non solo al nostro esperto di educazione finanziaria, ma a tutto il programma. La casella postale, pardon, elettronica, è serpentecorallo@radio24.it. Ma adesso andiamo con la sigla de Il risparmiatore maleducato. Il risparmiatore maleducato. Allora, il risparmiatore maleducato, dottor Marco Loconte, sì, autore di questo volume, appunto, Il risparmiatore maleducato, per i tipi del Sole 24 Ore. Confesso. In che senso maleducato? Maleducato perché non è educato finanziariamente in maniera adeguata, cioè si comporta male nei confronti del proprio denaro. Gli italiani, tratta male. Lo tratta male. Gli italiani sono attaccati al denaro, però non è che gli fanno la corte giusta, verrebbe da dire. Insomma, rispetto agli altri paesi, gli italiani sono a un livello di ignoranza maggiore e di preparazione inferiore. Secondo me ci ha dato degli ignoranti, Stefano. Va bene. Capisco. Comunque adesso non ci formalizziamo, lui è l'esperto e ci deve spiegare questo effetto che stava proprio alla base della truffa di Addis Melayu e di molte altre, cioè l'effetto gregge. Cos'è l'effetto gregge, sì, Marco? Guarda, questo è un trigger, cioè è un trigger. Cioè signor. È l'innesco in inglese. Ah, l'innesco, sì. Di quelli che mi piacciono di più, perché è il classico fenomeno col serpente corallo dentro, è quella cosa che ti frega e non la vedi perché chi è vittima dell'effetto gregge non sa di esserlo, ne è del tutto ignaro. Questo è un po' il punto. Ma come riconoscere di essere nel gregge senza che uno se ne accorge? Allora, proviamo a fare un esempio. Vi ricordate il Monte dei Paschi di Siena, My Way for You? Quei prodotti che erano un po' una ciofeca, ci sono state un sacco di cause. Quando ho intervistato un alto dirigente di MPS, lui per sostenere, per difendere la bontà di quegli strumenti finanziari ha detto: ma tutta la nostra rete, tutti i nostri dipendenti hanno comprato quei prodotti. Chiaramente non era vero, ma insomma questo per dire che per convincere la gente si fa credere che tutti siano portati, tutti vogliano andare in quella direzione. Un altro trucco dei grandi truffatori, dei patrimoni. Certo, poi se evitano di distribuire una cedola o un dividendo una volta, la gente non fa più pubblicità alla loro. Infatti, però lo schema Ponzi scatta proprio in quel momento, perché la gente vede subito che ha un ritorno e dunque circasca. Però il senso è che per convincere ti dicono: guardi, l'hanno già fatto tanti altri, e quindi uno pensa, effetto gregge, beh, allora va bene, mi posso fidare. Esatto, è una tecnica semplice ed efficace, no? Perché così la gente si fida degli altri, anche perché si sente insicuro nei confronti della finanza, nei confronti delle scelte complesse, e quindi cerca di imitare le scelte delle persone che reputa più brave di lui. Ma chiaramente ci sono molte variazioni sul tema, bisogna stare attenti, perché ci sono anche variazioni particolarmente articolate. Prendete appunto il tema del risparmio. Se la borsa sale, cosa fa la gente? Sottoscrive, altre compra, no? La borsa sale, quindi è portato a comprare. Quindi compriamo quando i valori sono alti, spendiamo molto. E quindi crescono di più. E quando la borsa scende? Vendiamo. Esatto, e questo è tipico da gregge. Da gregge, esatto, perché se uno ci pensa razionalmente, ma sarebbe giusto fare il contrario, no? La borsa scende e io compro perché vale di meno. Quando invece sale io vendo, perché così vendo e quindi guadagno. Io guadagno quando compro a poco e vendo a tanto, giusto? Forse è facile. Lo so, è chiaro che bisogna fare un minimo di ragionamento, bisogna starci un po' dietro per evitare di cadere nei tranelli, insomma bisogna leggere il Sole 24 Ore, leggere Plus, guardare le tabelle, insomma se uno vuole investire e deve farci un minimo di studio, no? Però chiaramente razionalmente devi fare la scelta migliore per il tuo denaro. E stare attenti a non essere troppo emotivi. Per esempio, ecco, un altro caso tipico di come l'emotività è non dannosa, disastrosa per quanto riguarda il denaro. C'è un vecchio film che ce la dice lunga su come l'emotività può distruggere il risparmio. Sentiamo. Benvenuto nella nostra felice famiglia di correntisti. Ridammi i miei due penny. Michael, comportati bene. Per favore, vieni. Che sta succedendo? La banca non vuole restituire il denaro. Ma io rivoglio il mio. Si muova, giovanotto, tutto il denaro del mio conto. E mi dia anche il mio. E il mio. Fermate i pagamenti. Questo era Mary Poppins, avete riconosciuto la scena della banca che ha rischiato il default perché un bambino voleva la sua monetina. Il fallimento è il cosiddetto bank run, cioè la corsa agli sportelli che rischia di spazzare via un istituto di credito anche senza un reale pericolo. E proprio per questo, è il caso di dirlo, di precisarlo, sono stati istituiti fondi di garanzia interbancari che proteggono i correntisti dal rischio default di una banca. Questo lo ricordiamo fino a 100.000 euro. Di deposito per titolare di conto corrente. Esattamente. Ecco, ma questo prevede il bail-in. Questo? Bail-in. Questo previene il bail-in. Il bail-in, cioè quelle misure di salvataggio cosiddetto interno e che scattano se una banca va in difficoltà. Ho capito, ma se io ho più di 100.000 euro in banca e la banca fallisce, mi fregano i 100.000 euro. Potrebbero chiederti di collaborare al salvataggio della banca. Bail-in. Come se io parcheggiassi la macchina in un'autorimessa, l'autorimessa fallisce e mi fregano la macchina. Esattamente, con tutto il posacenere. Anche col posacenere, no, però vediamo di dare. Chi l'ha inventato questo qua? Poi ti faccio uno schemino, proprio uno schema Ponzi straordinario questo bail-in. Allora, però non lasciamo così gli ascoltatori, sì, Marco, non lasciarci così. Come si fa a tenere a freno l'emotività? Beh, insomma, ci vuole, come ho detto prima, sangue freddo. A parte la droga, eh? Quella è bandita. Ci vuole sangue freddo, bisogna leggere i giornali, informarsi, insomma, fare confronti tra gli strumenti. Ascoltare Radio 24. Ascoltare Radio 24 è fondamentale, perché soltanto dando un po' di attenzione al proprio denaro si evita di disperderlo, di dissiparlo, bravo, di lasciarlo preda dei serpenti corallo, bravissimo. Oppure se uno proprio è lì che non riesce a resistere alla tentazione, ad un'offerta che ci viene fatta, ricordiamoci sempre di cosa ci disse Marcello Marchesi. E cosa ci disse Marchesi? Famoso slogan, un aforisma che deve rimanere scolpito nella nostra memoria. Prego. E che riguarda l'effetto gregge in particolare. Qual è? Mangiate merda, milioni di mosche non possono sbagliare. Ma non era Gualtiero Marchesi? No, quello è un altro, quello era più bravo a cucinare. E allora evitate l'effetto gregge, così ci ha spiegato il dottor Marco Loconte, che ringraziamo. Grazie a voi. Grazie di essere stato noi. Grazie di essere stato con i Chapter 11. Posso rimanere? Certo, certo, dottor Loconte, lei è il benvenuto, anche perché lei fa parte dei Chapter 11. Sì, in effetti sono membro fondatore. Forse qualcuno si starà chiedendo chi sono i Chapter 11. Chi siamo noi? Siamo sempre noi, i Chapter 11, cioè tre giornalisti al Sole 24 Ore che però di tanto in tanto si dilettano anche di comporre pop tributario con venature giuslavoristiche. Già ve ne abbiamo dato un piccolo assaggio a proposito appunto del consulente che fugge con il denaro. Adesso ci piace così proporvi dal nostro CD, che è intitolato Ma ce l'avete il CD? Perché si chiama così? Spieghiamolo. Perché quando ci capita di suonare spesso la gente ci chiede: ma ce l'avete il CD? Poiché noi ci esibiamo per sostenere per lo più iniziative di beneficenza, ci chiedono: ma ce l'avete il CD? Allora sì, noi... eccolo, ma ce l'avete il CD? Il nostro CD si chiama Ma ce l'avete il CD? E il nostro prossimo CD come si chiamerà? Il nostro prossimo CD. Noi siamo coerenti. È fantastico, siamo riusciti anche a dirlo insieme. Allora sentiamo un pezzettino di A Social Network, cioè Facebook. Su Facebook mi domandano amicizia un vescovo anglicano nato in Svezia, la fabbrica ungherese di un tabasco e un cane da pastore bergamasco. Peraltro son già amico di un consorzio che fabbrica prosciutti a Monte Porzio e di un agriturismo nel Bresciano che vuole convertirmi a mangiar piano. E questo è un attacco, un assaggio di Facebook, ma adesso è il momento, è un momento lirico. È bravo questo chitarrista che suona nei Chapter 11. Sì. Ma Stefano, io ti voglio chiedere una cosa. Tu ci devi parlare adesso della Brebemi, cioè dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano, perché tu hai un'ossessione per la Brebemi, io lo so. Che cos'è per te la Brebemi? È un luogo dello spirito, un luogo dell'anima. È un luogo dove io mi reco quando voglio di restare da solo, di non vedere più la gente. Ecco, i nostri ascoltatori che ci seguono magari da altre parti d'Italia che non siano la Lombardia, non sono avvezzi alla Brebemi, precisiamo che la Brebemi non è proprio l'autostrada più affollata della rete italiana. L'hanno costruita da poco e ancora non hanno costruito gli ingressi veri, cioè le pretelle che consentono di raggiungerla, qui pochi ci vanno. Pensa che non ci sono i distributori perché la benzina va a male. È chiaro, è per cui... Stefano, io so che a un certo punto tu per questa Brebemi hai avuto addirittura dei momenti lirici. Per te è un po' il tuo posto delle fragole, per dirla alla Bergman. Il posto delle fragole. Il giardino segreto. Ecco, come dice lui, il giardino segreto. Giardino dei boboli. Va bene. Più o meno, sì. Non importa, però la cosa importante che vogliamo mettere proprio come cameo. Che? Come cameo. Che? Vabbè, non importa. Vabbè. Segui il labiale. La cosa importante è che tu hai dedicato addirittura una poesia molto bella, molto sentita, molto partecipata alla Brebemi. E allora io volevo far sentire ai nostri ascoltatori questa poesia proprio prima di lanciare la viabilità. No, ma guarda, tu non ti devi schermire perché invece è un momento lirico importante per la Brebemi. Mi spiace per gli ascoltatori che magari ci seguono dalla Puglia, dalla Calabria, non hanno mai potuto gustare la Brebemi. Ma se venite al nord... Venite al nord perché vale la pena vederla la Brebemi, che non c'è mai nessuno! È fantastica la Brebemi. Secondo me, Stefano, tu sarai assunto presto come testimonial della Brebemi, specialmente dei Casellanti dopo... sono morti di fame. I Casellanti sono morti di noia, parafrasando una canzone di De Gregori. Ma adesso sentiamo allora di Stefano Elli, Lode alla Brebemi. Sempre caro mi fu questo casello e questo asfalto che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e guidando interminati spazi di là da quello e sovrumani silenzi e profondissima quiete, a tavoletta spingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento filo sul drenante manto, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno rumor d'autotreni e l'invadente e vivo rombo della sei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio e il naufragar me dolce, o mia Brebemi. Il serpente corallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Bentornati, bentornati e benvenuti all'ultima parte del Serpente Corallo di oggi. Caro Marco Lo Conte, nonché sì, esperto di educazione finanziaria, sì, il dottor Marco Lo Conte. Sì. Caro Stefano Elli, esperto di finanza occulta, nonché di finanzieri occulti, anche mi è sembrato di cogliere. Siamo arrivati alla conclusione, all'ultimo blocco della nostra trasmissione del Serpente Corallo, la trasmissione che ti insegna a riconoscere e magari a evitare le fregature, appunto, i serpenti corallo. A questo proposito, però, noi abbiamo anche l'ardire di segnalarvi qualche cosa dove potrebbe esserci il corallo, ma magari no. Trova il corallo e quest'oggi vi vogliamo proporre una ricerca del corallo nella previdenza, cioè nelle pensioni, nei versamenti, specialmente per la previdenza non solo del primo pilastro, quella, sì, dell'INPS. Quella obbligatoria. Sì, io ti guardo, Marco, tu sì, seguimi, perché io ho molto timore di parlare di queste cose davanti a te, che te ne occupi da tanto tempo, sì, di queste vicende di fantascienza, esatto, di pensioni che verranno, chi lo sa se verranno, per noi non verranno, credo. Presente Dottor Who, questa è Pensione Who. Pensione Who, ecco. Io so che tu hai fatto uno scoop. Eh sì, perché qui tocca fare tutto a me. Diciamo, gli scoop, tu sei l'addetto agli scoop della trasmissione, esatto, Serpente Corallo, bene. E allora, lo scoop è che tu hai trovato un attuario. Esattamente. Anzi, hai detto un'attuaria. Un'attuaria. Chi sono gli attuari? Ma chi sono, appunto? Tra poco lo scopriamo. Gli attuari sono una categoria non dello spirito, ma della realtà fantascientifica molto spesso, che ci aiutano a trovare il corallo, perché dobbiamo sottolineare ancora una volta questo aspetto. Il serpente corallo, cioè quello che ci dà la fregatura, allinea proprio nei punti, nei posti più nascosti, nei, sì, dettagli. Ma, scusa, posso chiedere una cosa? Prego. Allora, l'attuario alla mattina si alza, va in bagno, si fa la barba, va a lavorare. E se è una fa? Signora, questa già si fa, signora, la barba. Già, quindi, si mette i bigodini. Si trucca, si sistema. E poi, sì, cosa fa? Poi il presidente, so che ha la barba, il presidente dell'ordine. E sente gli attuari. Sì, quindi già, vedi che sono personaggi. Sì, ma cosa fa? Lui prevede il futuro. Allora fa il chiromante. No. Ci arriviamo. Adesso, se tu ascolti lo scoop, perché io ho avuto un piccolo assaggio prima e quindi lo so, se tu ascolti lo scoop vedrai che sarà tutto chiaro di cos'è un attuario. È uno scoop vero, perché guarda che in tutta Italia, e sono serio nel dirlo, gli attuari sono poco più di 800. Quindi il fatto già di aver trovato un attuario, sono, e di averlo intervistato, sono una razza abbastanza ridotta, insomma una popolazione molto molto ridotta. E lì capiremo dove anche nei versamenti per la tua pensione, caro Stefano, la tua pensione anche lì si potrebbe nascondere. È un quarto d'ora di contributi, cosa dici? Si potrebbe nascondere il serpente corallo. Sentiamo l'intervista. Tiziana Tafaro, ma lei che lavoro fa? Io faccio l'attuario. Che lavoro è l'attuario? L'attuario costruisce modelli matematici per la previsione dell'evoluzione delle collettività e dell'economia legata alla collettività. Ma vi occupate di previdenza anche? Ci occupiamo di previdenza e costruiamo i modelli per la previdenza. Premetto che studiamo 5 anni all'università per arrivare a fare queste previsioni. Studiamo all'università appunto modelli matematici, statistica, calcolo delle probabilità e anche economia, e con tutto questo siamo in grado di effettuare previsioni, quindi sul sistema pensionistico italiano, per esempio. Cioè, voi siete in grado di sapere quanta pensione prenderanno gli italiani da qui a 40 anni, per esempio? Tutti gli italiani. Noi stimiamo... Come tutti? Stimate? Stimiamo. Noi vi stimiamo per questo. Le parole per noi sono importantissime. Sì. Noi stimiamo la possibile pensione fra 50 anni degli italiani tutti e delle singole collettività anche più piccole... Per esempio dei quarantenni, dei cinquantenni, dei trentenni con determinate regole. Ecco, allora per esempio un 25enne che è così fortunato da iniziare a lavorare, a mettere da parte qualche cosa, andrà in pensione diciamo a 70 anni, no? Per avere 100 euro di pensione, quanti soldi dovrebbe mettere da parte? Allora non si può dire così, però considerando delle ipotesi normalmente utilizzate in questi modelli di proiezione, potremmo dire che con 20 euro... potrebbe costruire una pensione di 100 euro a 70 anni, mensili, 20 euro mensili, 100 euro mensili. Beh, mi sembra un buon equilibrio sostanzialmente, ma se complice il fatto che a 25 anni uno non ci pensa, magari altro per la testa, poi deve comprare, fare, spendere, eccetera, magari uno rimanda la decisione, procrastina il momento clou della decisione sulla pensione e ci pensa, che so, a 35-40 anni. Per avere 100 euro quanto dovrebbe mettere da parte all'incirca? Ecco, a 40 anni potrebbero diventare 50 quei 20. Ah, quindi più che raddoppiati? Più che raddoppiati andandovi a 70. Sempre a 70 anni. Vabbè, 40 anni, insomma, 50 euro per avere 100 euro all'incirca, beh, sono tanti. Abbiamo capito che questi modelli sono complicati, ma se uno rimanda ancora e aspetta 47-48 anni, per avere 100 euro quanto dovrebbe versare all'incirca? Allora, sicuramente di più e ancora raddoppia, perché a 50 anni può raddoppiare ancora il contributo, quindi 100 contro 100. Cioè 100 euro di risparmio per 100 euro di pensione? Come minimo. Ma gli conviene a quel punto? Allora, conviene perché? Perché si entra nel mondo della pensione, del pensionato, in cui la differenza tra mettersi quei soldi da parte per conto proprio o invece entrare in un fondo pensione, la differenza è che se poi si sopravvive più della durata che si è previsto che abbia la propria vita, qualcun altro si guiderà a mettere i soldi e quindi a erogare la rendita anche in questo caso. Quindi se va bene è festa, ma se va male? Vabbè, lasciamo perdere se va male. Ma se uno invece di decidere a 50 anni rinvia ancora, quanto dovrebbe mettere da parte per avere 100 euro di pensione? Deve tener conto appunto che ha pochi anni per mettere da parte. Quindi più tardi comincia e più deve mettere per riuscire a costruire un capitale tale da poter poi erogare 100 euro di pensione al mese. Quanti anni stimati di vita ci sono dopo uno che è andato in pensione a 70 anni, per esempio? Al momento attuale dovrebbero essere una ventina, dipende poi se si è maschio o femmina. Ma le previsioni prevedono... Cosa? Le previsioni prevedono che cresca ancora... Cioè che si vivrà più a lungo? Che si vivrà ancora più a lungo. Bellissimo! No... Beh, diciamo è bello, infatti, sicuramente è bello, per le pensioni è un problema. Perché? Perché sarà più lungo il periodo in cui io in qualche modo avrò bisogno di reddito senza lavorare e quindi, devo tener conto per tempo nel periodo in cui sono invece ancora attivo. Devo mettermi da parte di più. E quindi mi basteranno, avrò meno soldi e rischio di sopravvivere al mio denaro praticamente. Sicuramente, se tutto va bene... Se tutto va male, sopravvivo. Se tutto va bene, non ho capito se tutto deve andare bene o tutto deve andare male. Ho capito che c'è un serpente corallo da qualche parte che mi dà un mozzico. Sì, perché c'è una strana solidarietà al contrario nel sistema pensionistico, per cui chi sopravvive di più della durata media di vita prevista è finanziato dai contributi di quelli che sono sopravvissuti di meno. Ah, quindi chi ci arriva... Ho capito. È un giro di parole, abbiamo capito, è un giro di parole elegante per dire che a chi gli va male paga per chi gli va bene. È così, però è anche l'unico modo per poter fare una previdenza per tutti, dando a tutti il massimo che si può dare. Siamo nel 2017, nel 2067, come starò io? Benissimo. Ah, grazie, sono molto sollevato. E auguro in pensione. Nel 2067. Sì, nel 2067. Tu quanti anni avresti nel 2067? Avrò 104 anni. Mi piace questa tua determinazione e anche questo tuo ottimismo. E tu 105, se faccio bene i conti, Stefano, o 104 anche tu nel 2067? No, io credo 105 come la radio. Come la, un'altra radio, questa è Radio 24. Allora, abbiamo ascoltato l'intervista a Tiziana Tafaro, attuaria, quindi colei che ci dice quanto ad esempio bisogna versare per avere una rendita integrativa. Abbiamo scoperto che anche lì, se non ci si sveglia alla svelta quando si è in giovane età, ohimè, si rischia di andare poi a pagare di più di quello che si potrà riprendere indietro. Esattamente. E qui sta un po' un coralluccio previdenziale, perché... Sì. Questo non è tanto conveniente, dare di più per prendere di meno non è mai tanto un affare. Diciamo che tu acquisisci un diritto comunque, per cui è in astratto conveniente. In astratto conveniente, però nella pratica. Nella pratica, concreto. Chissà, perché poi dipende quando ci saremo nel 2067, ma questo mi dà... L'opzione call. Esatto, mi dà la spinta a parlare di un altro trigger, ne parleremo in una prossima puntata, la procrastinazione. La procrastinazione. Non so se mi è più oscuro, trigger o procrastinazione. Allora, in conclusione di questa puntata del Serpente Corallo, ricordandovi che potete scriverci a serpentecorallo@radio24.it. Io vorrei a questo punto introdurre la mia rubrica Comma Profondo. La tua rubrica? Sì, perché è la rubrica dove io racconto il corallo delle normative, che sono sempre cose che mi piace tantissimo far sapere agli ascoltatori. Possiamo avere la sigla della mia rubrica? Comma Profondo. Oh, allora, statemi a sentire, perché questa volta vi racconto un comma profondo particolare che può capitare a tutti. Nel settore sanitario si rilasciano fatture per prestazioni che non sono soggette a IVA. Queste fatture devono però prevedere il pagamento della marca da bollo da 2 euro. Talvolta è il cliente stesso a procurarsi la marca da bollo e a portarla alla clinica o allo studio. Questo gesto di cortesia crea però qualche problema nelle registrazioni di entrate e uscite. Come si fa a giustificare nella contabilità questo comportamento? Bisogna rilevare i 2 euro come un costo indeducibile? Oppure si deve registrare la fattura, ma non considerando la marca da bollo? Allora, è semplicissimo. È semplicissimo. Come no? Allora, anzitutto non c'è l'IVA perché siamo in campo sanitario, però per alcune operazioni che superano certi valori è assoggettato a marca da bollo da 2 euro, 2 urini, direbbe Alessandro Mani. Esatto. Però bisogna capire se la marca da bollo te l'ha data il cliente, te l'ha data il paziente, come ti devi comportare. Attenzione, perché si rischia poi che, se non, le cose non vengono fatte giuste, si rischia la solidarietà, che è una cosa brutta, non è una cosa bella, nel senso che ti danno la sanzione allo studio eppure al paziente con la marca da bollo. A tutte e due. Però guarda, è semplicissimo. Al di là, lasciamo perdere come sanare le sanzioni. Continui a sottolineare che è semplicissimo. Sì, perché guarda, è un passaggio per 2 urini, per questi 2 urini che il paziente si è prestato a prendere lui, non si preoccupi signorina. Primo, registrazione in voce cassa valori bollati della marca portata dal paziente. Poi scrittura in dare a cassa valori bollati. Primo passaggio. Secondo passaggio, in avere mi metti la voce ricavi diversi per rimborso dei valori bollati. Girano sempre questi 2 urini, non è che sono diventati 4, no. Sempre 2. Terzo, registri la voce imposta di bollo in dare tra i costi. Mi segui? Sì, ti seguo. Guarda, c'è tutto è durissimo, giro ma dei ci 2 sono. Urini. Okay. Quarto, okay. Per chiudere tutto quanto, perché il bilancio deve essere bilanciato, giustamente. L'ultima riga. Diminuisci la cassa valori bollati in avere. Ah, diminuisci in avere, ok. Ecco, se non hai capito, non ti preoccupare. Leggi, l'esperto risponde. Io metterei anche un cartello negli studi medici dicendo: i signori pazienti sono pregati di avvisare se si azzardano a presentarsi con la marca da bollo. E questa è l'ultima cosa che vi raccontiamo per oggi. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Serpente Corallo. Ascoltateci, scriveteci serpentecorallo@radio24.it. Una buona giornata da Mauro Meazza, da Marco Lo Conte e da Stefano Elli. Alla prossima! Ma quando sei bello, Serpente Corallo.